libre, vendi amor con tu cuore. No sean capire, vendi en amigliamo nel dolore. No siamo le due ser libre, vendi amor con tu cuore. No sean capire, vendi en amigliamo nel dolore. Noi siamo cattive, vendiamo il tuo cuore. Noi siamo cattive, vendiamo.